cominciato ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, iniziando dai piedi e salendo fino alla testa. Osservate come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi come ha messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, come appoggiano le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Come ha messo il collo, la testa. E come tenete la bocca? Se è morbida o se irrigidite i muscoli della bocca, della mandibola. E poi osservate come sono messe le spalle, quale spalla è più in avanti verso il soffitto e quale cade più indietro verso il pavimento. Ed infine passate ad osservare il respiro. Se è più con l'addome, con il torace, con entrambi. Bene. E adesso lentamente arrotolate su un fianco e vi mettete a quattro zampe con le mani sotto la perpendicolare che scende dalla spalla e il ginocchio sotto la perpendicolare che scende dall'anca. E molto lentamente cominciate a partire in posizione di partenza con il dorso del piede appoggiato a terra e poi continuate ad alternare mettendo una volta il dorso appoggiato a terra e una volta mettete il metatarso e le dita in sotto appoggiate per terra, come quando chi fa le gare di corsa parte dai blocchi e continuate. Quindi la schiena rimane sempre fissa? No, no, muovete tutto quello che viene da muovere e continuate a staccare una volta il piede appoggiando il dorso dei due piedi e una volta appoggiate il metatarso, le dita e continuate a farlo. Osservando se respirate, se state fermi immobili o come ha chiesto Gloria, se vi muovete un po' e chi si muove come tende a farlo. Per indietro. Sì. Ci si schiena così quando, quando è così. Il contrario a me. Quando allunghi. Sì. E continuate a giocare e man mano che lo fate organizzate in modo da riuscire ad appoggiare sempre un pochino meglio le dita e l'avampiede e poi il dorso e poi le dita e se potete, osservate come mettete un piede l'altro. Siccome non siamo simmetrici, può darsi che le appoggiate in modo diverso. Uno di più, uno di meno, uno più in fuori, uno più in dentro. Ok, e vi riposate sdraiandovi un pochino supine, pancia in su, e ogni volta che avrete bisogno durante la lezione di riposarvi, fatelo, perché può essere che vi dia fastidio ai polsi. E se dopo un po' il fastidio ai polsi è tanto, invece che appoggiare il palmo della mano, appoggiate le mani messe a pugno. Ma o tutte e due col palmo o tutte e due col pugno, non uno in modo e uno nell'altro. Il pugno così, così. Se, come sta meglio per portarci sopra il peso. E quando state supine, osservate se c'è qualche piccola differenza. Bene, di nuovo rotolate sul fianco e arrivate a quattro zampe. E questa volta mettete le dita appoggiate con il dorso come prima, e chi non lo faceva volutamente, quando appoggiate il dorso e quando appoggiato a metà tarso, muovete la schiena. Quindi chi la teneva ferma adesso la muova e osserva come la muove, cosa fa con il bacino. E osservate se state respirando e se per caso irrigidite l'addome o l'addome è morbido. Sì, si tira l'addome. Come? Si tira l'addome. No, lasciatelo morbido. E riposate un po'. E quando siete supine, ogni volta che vi riposate, osservate i minimi, se ci sono piccoli, anche se impercettibili, cambiamenti. E ancora una volta ritornate a quattro zampe, sempre passando dal fianco e cercando di vedere se trovate il modo più facile e veloce di farlo, senza fare fatica. E ora cominciate. Ma questa volta partite con le dita dei piedi appoggiate per terra e il metatarso appoggiato per terra. Quindi non siete più col dorso del piede appoggiato a terra, ma con le dita e il metatarso. E tenete i piedi fermi in questa posizione. E molto lentamente muovete il bacino avanti e indietro. Molto lentamente, sempre. E su e giù, avanti e indietro, avanti e indietro. Vai verso i talloni e torni a quattro zampe. Osservate se i piedi e le ginocchia sono alla stessa larghezza o se le ginocchia e i piedi sono più in dentro. Quindi le ginocchia sono larghi allo stesso, nello stesso modo. E osservate se continuate a respirare, se tenete il torace morbido, dopodiché ritornate ancora a quattro zampe. Mettete le dita dei piedi in sotto, in modo che appoggino le dita al metatarso, e adesso molto lentamente, tenendo appoggiato il piede destro, sollevate un po' il ginocchio destro. E ritorno e osservate il modo nel quale sollevate il ginocchio. Ma il piede deve rimanere giù. Il piede sta giù. Come fate questo movimento? Sollevate il ginocchio destro indietro, verso il tallone destro, come per stendere la gamba, o lo sollevate aprendolo in fuori, andando col ginocchio in fuori verso destra. Osservate qual è il primo modo che vi è venuto naturale. Dopodiché provate a farlo in entrambi i modi. Io faccio in modo, non ho capito l'altro. In uno sollevi il ginocchio e vai come indietro. Quando sollevi il ginocchio, il tallone destro va come indietro, come per arrivare ad allungare la gamba e appoggiare la pianta del piede per terra. Nell'altro sollevi il ginocchio in fuori verso destra. Io nell'uno mi spingo a sinistra, oppure faccio questo che dici tu. No, No, non a sinistra, non ho chiesto quello a sinistra. no, quello a destra, no, lo alzo buttandomi a sinistra il corpo, una cosa che faccio. Certo. Certo che un pochino porti il peso a sinistra, ma puoi farlo senza buttarti a sinistra in quel modo. È un'abitudine tua quella. Non ce la Cioè, faccio, ovvio. oppure ce la faccio come dici tu, andando in giù. Allora, ovvio che se porti in fuori il ginocchio destro, lo sollevi da terra, in fuori verso destra, porti il peso a sinistra. Però un conto è portare un po' il peso a sinistra tenendo il ginocchio sinistro, l'anca sopra il ginocchio sinistro, che è sotto la perpendicolare che scende dall'anca. Un altro conto è muovere l'anca sinistra in fuori in modo che non sia più sulla perpendicolare sopra il ginocchio. Sì. E fermatevi quando avete bisogno, eh? Male Le dita, lo so, perché fa sconvolgere. poi ritornate a quattro zampe. E quando siete a quattro zampe fate quello che avete appena fatto col ginocchio destro, ma col ginocchio sinistro. Quindi dita in sotto, in modo da appoggiare dita e metà tarso a terra, sollevate il ginocchio sinistro e osservate da questa parte in che modo vi viene naturale, se vi viene naturale sollevare il ginocchio sinistro in fuori verso sinistra o sollevarlo come per fare in modo che la gamba un pochino si allunghi, quasi che il tallone sinistro va come indietro per appoggiarsi sul pavimento e allungare la gamba. Quello va meglio. Fate piano, piano, piano, tutti e due i modi, ascoltando come vi muovete, se state respirando, se riuscite a tenere l'addome morbido. E quando avete bisogno di riposo vi fermate, potete anche sedervi se volete, senza sdraiarvi completamente, o meglio vi trovate meglio. Il dito destro, ma io ho varie dita dei piedi, piedi rotti nella mia vita. Nella tua storia. Questo è stato il primo nell'adolescenza. Quindi stando così mi duole. Da fastidio, molto, sì. Infatti. Può essere. Tu sei visto il destro. Va, il destro è più. Bene, ritornate a quattro zampe e questa volta sollevate una volta un ginocchio e una volta l'altro. Alternate, mettendo le dita in sotto, mano ad appoggiare l'avampiede e le dita, una volta sollevate un ginocchio, una volta l'altro, nel modo che volete, potete provare un po' di volte in un modo, un po' di volte nell'altro. La testa giù. La testa è a seconda di come porti il peso e come ti muovi partendo dal bacino. Certo, tienila morbida sul prolungamento di quello che fa la parte alta della schiena. E provate tutti e due i modi. E riposate un po'. Lezione a sorpresa. Sì, veramente. Vedrete. No, ma non è ancora la sorpresa. Ah, non è ancora arrivata. Pensavamo che sorpresa. Già così. È una sorpresa. È divertente, sì. Bene, rimettetevi a quattro zampe e questa volta tenete il volo e il dorso del piede appoggiato a terra. Ah, che bellezza! E sollevate il ginocchio destro tenendo il dorso del piede appoggiato a terra. e osservate se continuate a respirare, se tenete l'addome morbido. Poi vi riposate e poi facciamo il sinistro. Non riposatevi solo, ma osservate mano a mano, perché è mezz'oretta che lavoriamo, come è stata appoggiata a terra. Le scapole sono molto più appoggiate. Sì, anche per me, e alle spalle anche. Sì, sì, scapole e spalle. E voi? E anche i polpacci. Che polpacci? Sì, sì, è vero, è vero. Daniela? Non so perché. Bene, ritornate a quattro zampe, sempre ricordandovi di passare dal fianco. E appoggiate il dorso dei piedi a terra e sollevate una volta un ginocchio, una volta l'altro. O quello a sinistra? No, come? Una volta uno e una volta l'altro. No, una volta l'uno e una volta l'altro. Alternati. Senza lasciar cadere il ginocchio quando tornate. Piano, piano, piano, muovendo e osservando come si sposta la colonna vertebrale. Sedute un attimo, vi riposate. Ed ora è ritornata a quattro zampe. La Medusa quattro zampe, l'hai visto il film? No, è bella? Un vecchio film bellissimo. Ed ora vedete le dita in sotto, le dita dei piedi in sotto, in modo da appoggiare le dita, gli avampiedi, e senza dare colpi, fare movimenti strani, assurdi, eccetera, eccetera, piano piano sollevate entrambe le ginocchia un pochino da terra. E ritornate. Così? Mm-hmm. Quello che fai senza troppo sforzo, non occorre tantissimo. Osservate cosa fate con l'addome. Si rigidisce. Aiuta. Ok, allora provate a farlo irrigidendo l'addome, contraendolo. E poi provate a farlo lasciandolo morbido. O si fa sull'addome o si fa sui polsi? Non si riesce senza contrarlo. Sì, si riesce a essere enorme. Perché si contrae da solo, se no si deve fare sui polsi. Sì. Ok, vi sdraiate su supine, vi riposate. Osservate come state appoggiate a terra. Ed ora in questa posizione molto lentamente muovete entrambi i piedi in su e in giù, a martello tutti e due insieme e tutti i due tesi, in modo da far passare tutto il movimento fino alla testa. Quindi quando i piedi sono a martello si muove il bacino, schiacciate la cintura, il mento indietro, quando i piedi sono con le punte tese, inarcate la schiena, il mento si avvicina alla gola. E continuate facendo questo movimento. E man mano che lo sentite, lo percepite, aumentate la velocità e fatelo più piccolo. Più piccolo? Mm-hmm. Più aumenti la velocità, più diminuisci l'ampiezza. Più aumenti l'ampiezza, meno aumenti la velocità. Ed ora mettete le braccia in alto, appoggiate per terra, sollevate una gamba, la spostate in alto, appoggiate per terra, in alto, appoggiate per terra. E sollevate una gamba, spostate il piede al di là dell'altro piede e arrivate a pancia in giù. Solleva braccio in alto, appoggiate per terra, solleva una gamba tenendola tesa e incrociala al di là dell'altra e non piegata, pancia in su, staccate la gamba che volete, portate al di là dell'altra e ancorate pancia in giù. Incrociamo. Prossima volta vi dico io il lato, forse meglio. Sì, dai, facciamo così. Se siete a pancia in su, staccate la gamba destra e rotolate tutte a sinistra. Gamba destra, gamba destra, gamba destra e rotolate tutte a sinistra. Ok, e quando siete a pancia in giù, appoggiate la fronte e mettete le mani appoggiate a terra come per fare i piegamenti sulle braccia, fronte appoggiata a terra, appoggiate le dita dei piedi in sotto e appoggiate dita dei piedi in terzo e sollevando le ginocchia spingete dai piedi fino alla fronte. Quello che avete appena fatto a pancia in su lo fate adesso a pancia in giù, spingete coi piedi facendo passare come una vibrazione in modo da far arrivare in alto fino alla fronte. Gomiti, i gomiti sono sollevati, i gomiti sono sollevati e le mani appoggiate come per fare i piegamenti sulle braccia. È come se foste messi per fare i piegamenti sulle braccia, la fronte è appoggiata a terra e in quel modo, mettendo le dita dei piedi in sotto e l'avampiede in sotto, staccate le ginocchia e dalle dita dei piedi spingete in su fino alla testa. Piedi e ginocchia. Scusate, i due gomiti sono alla stessa altezza, non uno più in su, uno più in giù. Cosa succede? Ho perso dei passaggi. Vedete pancia in giù, te lo spiego. Pancia in giù, fronte appoggiata a terra, mani messe come per fare i piegamenti sulle braccia, mettete le dita e l'avampiede in sotto, staccate le ginocchia da terra e spingete sui piedi, andando in pratica col tallone indietro, spingendo le dita dei piedi in modo da far passare il movimento e in modo che arrivi fino alla fronte. Fronte appoggiata, ginocchia sollevate, spingete con le dita dei piedi in su, come se fosse una spinta in su, verso la fronte, verso la testa. E man mano che l'avete capito e lo sentite, aumentate la velocità e diminuite l'ampiezza. E vi fermate il supine e vi riposate. E vi riposate un po' di meritato a riposo. Osservate se state respirando. Dopodiché ritornate a quattro zampe. Normali. Normali. Cose interessanti, Edda. Quindi bene, bene, è stato piacere. Però è stato finire. Farai delle cose fantasmagoriche. Benissimo. Adesso, da posizione a quattro zampe, chi ha bisogno si aiuti staccando la mano destra, chi ce la fa senza ovviamente meglio. Il movimento consiste nel sollevare il ginocchio e il piede destro e portarlo e appoggiarlo avanti verso la mano destra. E ritorno. E appoggiare tutto il piede? Sì. O solo la mano? No, tutto il piede al piede. E ritorno. E osservate come lo fate. Ricordatevi che prima abbiamo fatto il movimento passando col ginocchio in fuori o sollevandolo dritto. Quindi osservate adesso in quale modo vi sentite più aiutate. Potete alla fine o quando avete bisogno anche staccare la mano destra, ma arrivate con tutta man mano, con tutta la pianta del piede destro a terra. E se potete, più che pensare di tirare e forzare, osservate se state respirando e come potete aiutarvi con il movimento di tutta la schiena, la colonna vertebrale, il bacino, il torace. Quindi partecipate piano piano piano con tutto il corpo. Vi accorgerete che per fare questo movimento assolutamente è indispensabile muovere il torace, non irrigidirlo. e osservate se continuate a respirare. Riposate un po' nella posizione che preferite. Mi uniformo. Sei seduta, se sei meglio seduta? No, è la stessa, perché è più veloce. Fate quello nel quale vi trovate meglio. E osservate se respirate. Osservate come appoggia la schiena. Come e se abbandonate il peso per terra. Perfetto, ritornate a quattro zampe e fate la stessa cosa con l'altra gamba, quindi partite e da posizione a quattro zampe sollevate il ginocchio e il piede sinistro e lo appoggiate per terra vicino alla mano sinistra. Con tutta la pianta del piede, man mano che lo fate. All'inizio, chi ha bisogno, se sente che fa fatica e rischia di strapparsi, di fare troppa fatica, di arrivare al limite, può sollevare il palmo o il pugno della mano sinistra, ma l'attenzione va messa a tutta la schiena, al torace, in modo che pian piano la schiena diventi flessibile come di gomma per aiutarvi a fare questo movimento. Quindi osservate se tenete a tenere il busto come se fosse un corsetto, un'armatura, o se è come se fosse qualcosa di gomma che si adatta mano a mano al movimento della gamba. E riposate un po', rimanete sedute un attimo, dopodiché alternate e muovete avanti una volta una gamba, un piede e una volta l'altro. Fate fatica. L'altra volta troppa dolcezza, l'orologio. Alterniamo un po'. In modo che non si caschi. Si dice stereotipo o stereotipo? Stereotipo. Okay. Cioè, in modo che non cadete nello stereotipo. No, non c'è pericolo. Siamo tutti divergenti. Siamo tutti divergenti, perfetto. Andiamo di là. Andiamo a quattro zampe. Andate a quattro zampe e muovete avanti una volta un piede e una volta l'altro. E e vi riposate supine. Mettete le braccia in alto, appoggiate per terra, sollevate il piede destro, rotolate a sinistra, a pancia in giù, appoggiate la fronte per terra. Mettete le mani con i gomiti sollevati e le braccia piegate come per fare i piegamenti sulle braccia. Mettete le dita dei piedi in sotto, come per correre, sollevate le ginocchia e spingendo con i piedi fate passare il movimento fino alla fronte. Sollevate le ginocchia, appoggiate la fronte e spingendo con i piedi fate arrivare il movimento fino alla fronte. Ok, e adesso sollevate solo il ginocchio destro e premendo col piede destro spingete in su verso la testa. Non ci sta il naso con la fronte. Non ci sta. No, il naso troppo lungo. E adesso fate la stessa cosa, sollevando solo il ginocchio sinistro. Osservate come passa la spinta, lasciando il ginocchio destro giù e sollevando e muovendo solo il sinistro. Come arriva la spinta fino alla testa. Ed ora spingete con entrambi i piedi, tenendo le ginocchia sollevate, osservate come passa. Ok, e adesso sollevate, premendo con le mani, sollevate la testa, e guardate verso la parete davanti a voi, spingendo con le mani, e poi appoggiate giù la testa, no, gomiti su, Chiara. Ma no, lo so, non posso fare questo esercizio. E poi appoggiate la testa, mettete le dita in sotto e sollevate il bacino, premendo con le mani. È faticosissimo. Il bacino? Sì. Il bacino è su? Sì. Perché se non si riesce. Fai quello che vuoi. Appoggiate però. Sì. Sì, lo so. Però e allora? E poi alternate e sollevate una volta la testa e le spalle e mettete giù testa e spalle e sollevate il bacino. Allora, aspetta, le dita dei piedi però in appoggio. Yes, come per correre. La testa giù appoggiata, su il bacino, poi non ricordo più. Vai col bacino in su verso il soffitto. Sì. E li appoggi. Sollevi la testa, gomiti sollevati però. Gomiti sollevati. Come per fare i piegamenti sulle braccia. Sollevi la testa, le spalle, scendi, riappoggi la fronte. Sollevi il bacino. scendi e lo riappoggi e alterni sollevando una volta la testa e una volta il bacino. E adesso provate a sollevare testa e bacino insieme. No. Come viene? Possibile. Potete stendere le braccia, perché sennò ovviamente non potete staccare il bacino se le braccia stanno piegate. Come? Le braccia come? Partite così, con così. Le mani come per fare i piegamenti sulle braccia e sollevate la testa, spingete con le mani, allungate le braccia come per stenderle, staccate un po' anche il bacino verso il soffitto e la testa va in giù. Ok, mettete le pancia in su e riposate. Mi spiace. Meritato riposo, osservate come appoggiate la terra. E ritornate a quattro zampe. Meritato riposo, certo c'era una beffa, una parola. Come una beffa? Cosa hai fatto fino adesso? Hai fatto 30 secondi di riposo. Neanche. E vabbè, sono sufficienti. Se lo porti di luna. Vedo che non apprezzate. No, insomma, è perché cioè, ci sono i polsi che urlano. Per non parlare della cervicale. Potete, vi ricordate che potete appoggiare anche i pugni se volete, vero? Sì, ok. Bene, appoggiate come prima il piede destro, staccate il ginocchio, il piede destro, l'appoggiate vicino alla mano destra. E rimanete in quella posizione e staccate varie volte il braccio sinistro verso il soffitto. No, in fuori. In fuori verso il soffitto. Così. In modo che sia quasi perpendicolare alla terra. Non dietro, ma verso il soffitto. Guardate verso la mano. E ritorno. E continuate. Il piede sempre fermo. Sì. Aprite in fuori il braccio. Non indietro, Gloria, in fuori. Così? Sì, ma in fuori e verso il soffitto. Così? Yeah. E ritorno. E continuate. Dopodiché rimanete col braccio verso il soffitto e guardando la vostra carissima mano, allungate la mano e il braccio al soffitto. Allungate e lasciate andare, ma rimanete col braccio aperto. Non indietro, ma è come se io vi prendessi per il polso e vi allungassi al soffitto. E riposate un po'. E poi facciamo la stessa cosa con l'altra gamba, quindi appoggiate il piede sinistro per terra davanti a voi, vicino alla mano sinistra. Rimanete in quella posizione e sollevate la mano destra e la chiudete, guardando verso la mano destra. Poi rimanete con la mano destra aperta in fuori verso il soffitto, in alto, e allungate la mano verso il soffitto. Quindi sentirete che c'è tutto un movimento che passa nel torace e nelle vertebre e nelle costole. E riposate un po'. Un po', Non pensiate di stare. Cioè, io non mi sdraio perché mi so fa stare troppo poco. E la fatica di sdraiarmi, di alzarmi, esatto, non vale quanto il tempo che sto. Bene. Ho colto, vero? Sì, come una radiografia. Letta come una radiografia. Bene, e ritornate a quattro zampe. Vedete il piede destro avanti appoggiato accanto alla mano destra. E ora, senza perdere l'equilibrio, fate un movimento nel quale questa volta è la mano sinistra che si apre in fuori verso il soffitto. Prima era l'altra mano. E ritorno. Era sempre quella opposta. No. Ah no, scusate, sì, avete ragione, mi sono sbagliata. No, è l'altra, scusate, la è la mano destra, sì. Allora adesso? La mano destra si apre in fuori verso il soffitto. Avete ragione, mi domandavo cosa stavate dicendo, avete fatto molto meglio. E ritorno. E rimanete col braccio verso il soffitto e lo allungate. Osservate se respirate, se tenete la bocca morbida. E poi vi riposate. Come volete, dopodiché facciamo l'altro lato. Vedo che gradite sdraiarvi completamente. Bene. Sì, non viene. E ritornate a quattro zampe e appoggiate il piede sinistro avanti accanto alla mano sinistra, dopodiché sollevate il braccio sinistro in fuori verso il soffitto e ritorno un po' di volte. e poi rimanete col braccio aperto in fuori verso il soffitto e lo allungate al soffitto, osservando come passa il movimento nel torace, nelle costole, nella colonna vertebrale. E rotolate pancia in su. Adesso abbiamo i due movimenti del gran finale, Ci siamo quasi. Ok, ritornate a quattro zampe. Un momento di resistenza. Ora staccate il ginocchio e il piede destro e lo muovete avanti accanto alla mano destra. Il piede destro avanti accanto alla mano destra, tutto appoggiato. Dopodiché, senza rompervi, aiutandovi con le mani eccetera, staccate il ginocchio sinistro e muovete avanti anche il piede sinistro, arrivando in posizione come per squatting, accovacciate. Chi ce la fa sa accovacciare il tutto, chi non ce la fa fa quello che riesce a fare. Accovacciate del tutto vuol dire che tutta la pianta del piede è appoggiata e i piedi sono larghi come il bacino, perché se sono stretti non ce la fate, e vedete se vi trovate meglio con le mani dentro o fuori. E poi da lì staccate il piede sinistro e ritornate a quattro zampe, il destro, e ritornate a quattro zampe in posizione di partenza. E continuate a farlo. Però io facendo così sto, non appoggio le mani. Vabbè, staccale dopo, sì, quando sei... No, ce l'ho giù, ma l'appoggio è esclusivamente sulle caviglie. E beh, certo, guardi più là. Ecco. Bene, rimanete a quattro zampe. Mettete le dita dei piedi in sotto, come abbiamo fatto all'inizio, e adesso... No, in sotto arricciate, staccate le ginocchia, e vedete se riuscite, come abbiamo fatto una volta, a sollevare il bacino arrivando come ad appoggiare più o meno le piante dei piedi a terra. Non ho capito. Sì, non c'è più del tutto. Senza forzare. E ritornate giù. Così, perfetto. Piano piano piano, sì, non forzate, tenete le gambe piegate. Ma è che io tenevo i piedi dall'altra parte, allora. Infatti, ma pensavo che fosse perché ti dava fastidio le dita. No, perché spontaneamente mi veniva così. No, è che mi avevi detto prima che ti dava fastidio le dita, pensavo volessi stare ferma. Vedi com'è. E si cerca di appoggiarle tutte, no? Sì, quello che riuscite, sì, man mano. Se ce la fate appoggiate tutto, ma l'idea non è di tenere le gambe tese, ma potete tenerle benissimo piegate. Ok, vi sdraiate e osserviamo le cose. Bravissime, oh, bellissimo. Questa è la carina. Molto felice. Questo ultimo era bello. Sì. È il gran finale. Questo è bello, è quello di sollevare il bacino. È possibile. Bene, cominciate ad osservare gli appoggi partendo dai piedi, arrivando fino alla testa. Osservate come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino, destra, sinistra. Come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare. Le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Il collo, la testa. E infine, come sono messe le spalle e le braccia. Poi, quando siete pronte, arrotolate su un fianco e li alzate. E dopo aver osservato come state in piedi ed aver camminato un po' prima indietro, poi in avanti, vi fermate e vi flettete avanti come per andare a toccare con le mani a terra e vedete fin dove arrivate rispetto al solito. Sì, quando siete in piedi. Sì, sì.